Allora, vediamo un po', ma oggi voglio sentire Gonchi, Gonchi, vieni tu, dai, su. Che ce lo sapevo io. Ecco, il suo momento, aspetta un attimo. Dica. Come la vuoi l'interrogazione? Leggera oppure A martellante? me è la stessa cosa, tanto sempre tu di... La Vabbè, va, dimmi, ah, la faccio leggera questa cosa, va. Allora, Gronchi, Gronchi, parlami dell'Italia ai tempi di Giolitti. no? Insomma, non mi vivi per culo, la 20ª volta che mi chiede questa cosa, sai che non E la so, e io questa te la basta. chiedo per la 20ª volta perché speravo che dopo 20 volte che te la chiedevo tu la sapessi. Vabbè, professore, no, non ho potuto studiare, vabbè. Cioè, sta settimana è proprio piena di impegni. Poi, oltre quello, ieri sera ci si è messo un tappo che mi è entrato in camera e mi è rimasto, cioè, mi ha svegliato, mi ha scioccato. Io mi sono svegliato, mi sono visto un sorcio così, ma che devo fare? E dai, professore, no. Basta, fammela finita. Tanto qua parli, parli, parli, poi alla fine fa sempre quel cazzo che te pare. Perché a non incantare un cazzo, casco. Vaffanculo, vaffanculo, storia, vaffanculo, scuola e da oggi sarà.